reportage. Europa e Africa unite contro i rifiuti elettronici, di Laura Bettini. Firenze, città d'ingegni arditi. Firenze, Anversa, Oporto e Vienna. Sono le quattro città europee che porteranno la propria esperienza nella gestione dei rifiuti tecnologici nelle aree metropolitane di Choma, in Zambia, Abidjan, Costa d'Avorio, Kisi, che è un'area metropolitana vicina a Nairobi, in Kenya, e Johannesburg, in Sudafrica, con il coordinamento di Remedia, sistema collettivo italiano no profit per la gestione ecosostenibile dei RAE, i rifiuti elettrici ed elettronici, le pile e gli accumulatori esausti. Il progetto elaborato da Remedia, battezzato EWIT, che sta per E-Waste Implementation Toolkit, è stato infatti il prescelto dell'Unione Europea nell'ambito del programma Horizon 2020 per attivare una cooperazione strategica con l'Africa sulla gestione dei rifiuti tecnologici. Danilo Bonato è il direttore generale del Consorzio Remedia. Sì, la filosofia del Consorzio è quella di mettere a disposizione la propria esperienza per contribuire ad affrontare e risolvere il tema dell'impatto dei rifiuti nelle grandi aree metropolitane in generale in Europa, ma guardiamo in particolare all'Africa, perché bisogna far presente a chi ci ascolta che il cambiamento degli stili di vita e delle abitudini di consumo della classe media della popolazione africana sta incrementando in maniera veramente esponenziale. Noi non ci rendiamo conto, ma i flussi di rifiuti in generale e in particolare anche dei rifiuti elettronici, che hanno due fonti. Una è quella interna, perché aumentano il numero di computer, cellulari, elettrodomestici che vengono utilizzati, consumati e gettati via, e poi c'è tutto il tema dei flussi dall'Europa e dagli Stati Uniti, quindi queste esportazioni illegali che riempiono le grandi aree metropolitane di rifiuti elettronici. Per non parlare dell'export illegale. Secondo studi recenti, solo dall'Europa arriverebbero 300.000 tonnellate di RAE, che se fossero invece avviate a corretto trattamento potrebbero creare 1.500 posti di lavoro diretti. Il progetto ha un valore di 1,6 milioni di euro e coinvolgerà, oltre ovviamente agli attori principali, altri 24 partner internazionali tra università, istituzioni e industrie. È anche un'opportunità per portare delle tecnologie delle aziende europee ed italiane, perché creando questi sistemi e non lasciando sempre ai soliti cinesi, non me ne vogliano le imprese cinesi, ma grazie anche a questi progetti c'è la possibilità di creare delle partnership molto concrete e efficaci, dove poi introdurre delle competenze, delle tecnologie europee e italiane, proprio per contribuire a riciclare in modo sicuro e efficace questi rifiuti. Per raggiungere gli obiettivi si inizierà ovviamente dalla mappatura dell'esistente. Ancora Bonato. Al termine di questo lavoro, gli esperti che poi affiancano le municipalità europee e africane saranno in grado di mettere a punto dei programmi di realizzazione di sistemi ottimali per iniziare una raccolta di questi rifiuti, portarli verso impianti che faremo nascere in queste città, inizialmente impianti con tecnologie molto semplici, ma che toglieranno i rifiuti dalle discariche e soprattutto dalle mani di bambini o lavoratori che sono messi in condizioni precarie per quanto riguarda la salute, per non parlare dell'ambiente. E quindi questo intervento da un lato cerca di recuperare tutto quello che è già stato realizzato a livello locale in una logica di maggior sicurezza ambientale della salute, e poi far sì che le risorse ricavate da queste lavorazioni dei RAE non finiscano nelle mani di broker internazionali, ma possano rimanere una ricchezza nell'ambito del territorio. Ma perché sono state scelte proprio quelle quattro città europee? Sono città che hanno fatto degli investimenti in nuove tecnologie, ad esempio nel campo della idrometallurgia, per il recupero delle materie prime critiche contenute in alcune componenti dei rifiuti elettronici. Sono città che hanno fatto campagne, iniziative importanti e anche innovative nell'ambito della raccolta, e quindi sono aree metropolitane dove i governi locali e le società che gestiscono i rifiuti possono sicuramente portare esperienze, competenze, know-how utilizzabile in maniera molto concreta per realizzare i sistemi che abbiamo in mente di realizzare in Africa, dove dovete immaginare che sostanzialmente non esiste nulla, non solo per i RAE, non esiste una normativa, non esiste un sistema di raccolta, ma purtroppo in generale anche per gli altri rifiuti. L'IPOR è il gestore dei rifiuti dell'area metropolitana di Oporto, in Portogallo, e Susana Breu è la responsabile dei rapporti internazionali che sta seguendo il progetto EWIT. L'IPOR is a company of Portugal. L'IPOR è responsabile della raccolta e trattamento dei rifiuti di 8 comuni della Grande Oporto, in cui vivono circa 1 milione di persone. Quando ci è stato presentato il progetto EWIT, abbiamo pensato che avremmo potuto partecipare perché abbiamo una lunga esperienza nella gestione dei rifiuti e dei rifiuti elettronici in particolare. Sappiamo che in Africa c'è molto da fare in questo campo e noi possiamo dare il nostro contributo. Avete già esperienza di lavoro in Africa? Abbiamo già esperienza di lavoro all'estero, abbiamo contatti con l'Angola e partecipiamo a varie conferenze internazionali per condividere le nostre esperienze ed eccellenze. Condividiamo volentieri le nostre buone pratiche e le competenze. Siamo felici di aiutare chi ne ha bisogno nella gestione dei rifiuti. The definition of waste management strategies. Vista l'esperienza in Angola, qual è il primo ambito, secondo lei, su cui è necessario intervenire nei paesi africani? Le infrastrutture, le competenze? In Africa is a lot of work to do, but in Africa c'è molto da fare. Le infrastrutture sono molto importanti, ma anche le competenze. A mio avviso, però, il primo passo da fare è la definizione di obiettivi di medio e lungo periodo che chiariscano a tutti, tecnici e politici, qual è la strada per arrivare ad una gestione ottimale dei rifiuti. Noi lavoreremo in particolare con la città di Kisi, inizieremo con dei workshop in Kenya per capire qual è la situazione, poi ne faremo altri in Europa da noi per presentare le nostre proposte d'azione e di buone pratiche. L'intero lavoro avrà una durata di 2 anni. La controparte di Firenze invece sarà Johannesburg, dove il progetto verrà seguito dal CSIR, il Consiglio di Ricerca Scientifica e Industriale legato al Ministero Sudafricano della Ricerca Scientifica. Dal CSIR ci scrive la professoressa Linda Godfrey, ammettendo che gli ultimi dati sui rifiuti elettronici di cui dispone il paese risalgono al 2011. Il Sudafrica recuperava allora solo l'11% dei RAE. Non ci sono statistiche ufficiali che mostrino cosa sia accaduto negli ultimi 4 anni. La raccolta riguarda principalmente i computer e le apparecchiature elettroniche in generale. Il materiale raccolto viene spesso trasportato all'estero per il recupero dei materiali pregiati che contiene. L'idea del progetto EWIT nacque nel 2013 durante un incontro a cui io stessa presi parte fra Unione Europea e Unione Africana sul tema della gestione dei rifiuti. Quegli incontri si sono tradotti poi nell'agenda comune di gestione dei rifiuti siglata da Europa ed Africa nel 2014. In questo contesto, il progetto EWIT è una splendida opportunità concreta per rafforzare la collaborazione fra i due continenti siglata nell'agenda del 2014. Spero sinceramente che questo progetto accenda i riflettori sul problema della raccolta dei RAE in Sudafrica e indichi la strada per aumentarne la raccolta differenziata. Mi farebbe anche molto piacere se, invece di mandare tutto all'estero, riuscissimo a stimolare la nascita di piccole imprese sudafricane capaci di processare i RAE e recuperare i materiali preziosi che contengono. Come ricercatore giudicherò un successo se il progetto EWIT generasse una stretta collaborazione fra esperti dei due continenti. Come cittadina dirò che il successo sarà fare uscire i RAE dalle discariche e avviarli al riuso, recupero e riciclaggio. Tra 2 anni la fine del progetto e si spera i festeggiamenti. Euro Reportage. Collaborazione con Euronet Plus.